una tarda mattinata ormai lontana negli anni, allora quando ricoprivo un incarico nella pubblica amministrazione, venni avvisato dal portiere che un signore chiedeva di me. Mi feci dire il nome, gli dissi di farlo salire indicandogli dove avrebbe potuto trovarmi. Mi ricordavo di costui. Era un pittore che avevo conosciuto nel passato, avevo avuto occasione di incontrarlo in qualche assemblea, magari dove c'era Sorbi, poi l'avevo perso di vista. E dopo qualche minuto bussò alla porta del mio ufficio e me lo ritrovai davanti in tutta la sua corposa imponenza. Ci salutammo cordialmente, lo feci accomodare e per alcuni minuti, come d'uso, sì, per alcuni minuti si passò in rassegna occasioni e conoscenze in comune. Poi venne al dunque. Aveva bisogno di un favore. Me lo disse e presumibilmente ebbe modo di leggermi in faccia tutta la mia perplessità. Fu a questo punto che richiamò la mia attenzione su di sé. Non rispondermi ancora, mi disse. Guardami bene. E io tornai a fissarlo, per poco però, soltanto per un attimo. Nel 1979, nel dizionario di psichiatria Insi Campbell, la sindrome di Capgras viene definita come una malattia che implica una errata identificazione, un falso riconoscimento delle persone del proprio ambiente osservabile in pazienti da schizofrenia paranoide. Nel 2003, tuttavia, la stessa sindrome di Capgras viene definita in modo del tutto diverso. Facendo l'esempio di un paziente che venne ricoverato per trauma cranico dopo un incidente stradale, ne parla il neuroscienziato Ramachandran in un libro coraggioso di cui abbiamo credo già parlato, che si intitola Che cosa sappiamo della mente. Questo paziente al risveglio sembrava stesse bene, no? E sembrava fosse perfettamente normale. Se non che al momento in cui venne a trovarlo sua madre, rivolgendosi con molto tatto, prese da parte il dottore e senza farsi sentire gli disse sì, che sì, quella persona appena entrata somigliava molto a sua madre, che sembrava del tutto identica, ma che non era affatto sua madre e che, anzi, di certo si trattava di un'imbrogliona, c'era in atto un'impostura. È a questo punto che scattò la diagnosi di sindrome di Capgras. La spiegazione, tutto sommato, è anche semplice. Allora, le operazioni mentali relative al riconoscimento vengono eseguite in una parte del cervello, una parte denominata il giro fusiforme, no? Ma ecco, la coloritura emozionale del riconoscimento, il suo significato effettivo, vengono poi elaborati da un'altra particina del cervello, l'amigdala. Ed evidentemente in quel paziente il passaggio dell'immagine della madre da una parte all'altra era stato interrotto dal trauma subito. Ecco perché la persona entrata nella camera dell'ospedale somigliava alla madre del paziente, ma non poteva esserlo. Assegnare significato a qualcosa implica dunque un coinvolgimento emotivo che, dall'alto della nostra pretesa razionalità, tendiamo ad escludere. Tra il tentativo di spiegazione della sindrome di Capgras effettuato dalla psichiatria e il tentativo di spiegazione effettuato dalla neurobiologia sono passati più di 20 anni. E tuttavia, ecco, ancora in un libro fresco di stampa trovo uno psichiatra che rimane sulla prima spiegazione. Lo scrive tal Mastronardi, che definendosi peraltro anche criminologo clinico, immagino ricopra ruoli di particolari responsabilità nei confronti della vita altrui, e lo scrive in un libro che intitola Film Therapy, sottotitolato I film che ti aiutano a stare meglio. Si tratta di un bel esempio del come e del perché le cose vadano male e non ci possa essere verso che vadano meglio. Dovrebbe far parte dell'ovvietà scientifica, no? Che prima o poi quel che viene detto nell'ambito di una disciplina, frutto di certi metodi e di certi strumenti, prima o poi, ripeto, venga tradotto nei termini di un'altra disciplina. E dovrebbe far parte dell'ovvietà scientifica che, trattandosi di psicologia e di psichiatria, prima o poi il loro sapere venga sostituito dal sapere della neurobiologia. Nel 1979, probabilmente gli strumenti e i modelli interpretativi per capire cosa accadeva nel cervello di un paziente affetto da sindrome di Capgras non erano ancora disponibili e conseguentemente il campo era ancora sufficientemente libero perché psicologi e psichiatri ci giocassero con le loro categorie, parlando e straparlando di schizofrenia paranoide, chissà cos'è. Ma il fatto che a ciò non si rinunci nemmeno dopo che il meccanismo è stato chiarito in termini di neurofisiologia, significa una cosa sola: che il paziente, prima di tutto, è un cliente. Con i relativi corollari, che di clienti più ne rimangono a disposizione meglio è per il conto in banca, e che fino a che non gliel'hanno tolto dalle fauci, il terapeuta non molla l'osso. Qualche esempio di terapia, scegliendo fra i film consigliati, renderà bene un paio di idee. La somministrazione di Fight Club di David Fincher, la storia di un bel ragazzo in crisi che finisce fra, come dice Mastronardi, fra combattimenti clandestini e milizia rivoluzionaria, la somministrazione di questo film porterà alla consapevolezza, secondo lo psichiatra in questione, delle difficoltà nella ricerca della propria identità, e se visionato in un'ottica positiva potrebbe essere in grado di fornire spunti costruttivi, chiarendo a se stessi quantomeno ciò che sicuramente non si desidera. La somministrazione di Shining di Stanley Kubrick, per fare un altro esempio, esplorando la malattia mentale, si presenta in grado di suggerire atteggiamenti mentali di deterrenza preventiva per combattere l'abbruttimento psicofisico e l'isolamento. La somministrazione della Vita è meravigliosa di Frank Capra, invece, con una metafora che tradisce la ferma intenzione di porre un rapporto tra psiche e siringhe, la somministrazione della Vita è meravigliosa costituirà un intramuscolare di fiducia. L'uno per l'altro sembrano i commenti in circolazione anni or sono nei cineforum degli oratori, ma d'altra parte confermano appieno quella vocazione delle discipline psicologiche alla normalizzazione sociale dell'individuo. Che poi il far vedere qualcosa che va per un verso, come in Shining o in Fight Club, possa servire a far andare in un altro, ma guai se accadesse poi con La vita è meravigliosa, questo poi resta tutto da dimostrare. Un film non ha la valenza di una seduta di ipnosi, dice Mastronardi, ma quasi, perché indurrebbe... Allora, il film indurrebbe ad uno stato di veglia sognante, ad una sorta di sonno REM o ad un terzo stato della coscienza. Tutte condizioni ideali perché l'abile terapeuta utilizzi il film come un cavallo di Troia per veicolare, proporre e suggerire comportamenti e messaggi alternativi a quelli che lui considera devianti o più o meno patologici. il fine ultimo rimane sempre quello della ristrutturazione globale della personalità. E profumi di Settecento anche accompagnano l'idea dell'ipnosi. Vivacchia ancora nelle pieghe più polverose delle cliniche moderne qualcosa di Franz Anton Mesmer e del suo magnetismo animale, del suo allievo il marchese di Puységur e degli stati di trance che induceva, stati di trance in cui comandava le sue ricche pazienti di compiere qualche bizzarria divertente e da cui poi queste si risvegliavano finalmente e perfettamente guarite. Forse dopo tutte le storie di ipnotizzatori da circo o mossi da loschi scopi, non si dirà più a me gli occhi, ma rischiando meno denunce e mantenendo il medesimo potere, peraltro, a quanto pare si è scesi alla pratica più impersonale e ormai ridotta a banale normalità di spegnere una luce e di invitare a guardare uno schermo. Il neuroscienziato Ramachandran è anche quello che in un suo libro precedente, parlando della possibilità di interazione fra mente e corpo, mi aveva svelato il mistero delle verruche. Allora, la verruca sostanzialmente è un tumore benigno provocato da un virus, no? Il cosiddetto papilloma virus. Abbiamo in tanti diretta o indiretta esperienza di quanto sia difficile disfarsene. Spesso se ti cresce una verruca da qualche parte te la tieni. Chi non se la volesse tenere, non ci credeva neanche Ramachandran, dice, chi non se la volesse tenere, a quanto pare può provare a farsi ipnotizzare, perché in certi casi sembra che la verruca in pochi giorni, in poche ore, cada stecchita. Due sono le ipotesi sul perché. O il sistema nervoso autonomo, che governa vari fenomeni fisiologici non sotto il diretto controllo del pensiero conscio, o il sistema nervoso autonomo è in grado di asfissiare la verruca restringendo i vasi sanguigni che l'alimentano, o per qualche meccanismo che tuttora ignoriamo, l'ipnosi attiva il sistema immunitario che, come una polizia che finalmente non ha più le mani legate, interviene e fa secco il virus. Stavo cadendo, e non era una verruca, ero io che stavo cadendo. Ancora un attimo e sarei caduto dalla sopra. Disperato mi resi conto che il pittore mi stava fregando. Riuscii con fatica a distogliere lo sguardo dai suoi occhi e feci un bel respiro profondo. Ripresi la padronanza di me. Gli spiegai che nella mia posizione nulla avrei potuto fare di ciò che mi chiedeva, si era sbagliato di persona e si era sbagliato di posto, mentre nella mia posizione da talora avrei potuto offrirgli un aperitivo, che sdegnosamente rifiutò. Lo accompagnai alla porta, sorridendo affabilmente, ringraziandolo di essersi ricordato di me. Lo salutai con un'amichevole pacca sulle spalle, avendo cura di stargli sempre un po' di lato, gesticolando oltre la mia misura, senza mai guardarlo negli occhi.